La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme, disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese. L'articolo 47 contiene due principi importanti. Da una parte il principio del risparmio, quindi la Repubblica tutela e incoraggia il risparmio, ma anche coordina e controlla l'esercizio del credito. Secondo principio, il diritto all'abitazione, perché la Repubblica favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione. Il primo comma, quello che riguarda il credito, è un comma sempre attuale, perché sappiamo che il controllo sul credito nacque in Italia alla fine dell'Ottocento, dopo i grandi scandali connessi anche alla Banca Romana. Ecco allora che nacque la Banca d'Italia come autorità di controllo del settore del credito, in quanto il risparmio popolare deve passare necessariamente attraverso il sistema bancario, ma il sistema bancario deve essere coordinato e controllato dallo Stato. Nell'evoluzione del sistema finanziario, accanto alla Banca d'Italia, sono nate e si sono aggiunte importanti autorità di tutela, come l'Antitrust e soprattutto la Consob, proprio per guardare con attenzione a quello che è oggi uno dei settori principali dell'economia, cioè la finanza. E qui la Costituzione comunque pone il principio che deve essere la Repubblica a coordinarne e controllarne lo svolgimento. Passando al secondo comma, non è solo diritto alla residenza e quindi diritto ad avere una casa riconosciuta e agevolata dallo Stato, ma soprattutto diritto a poterla acquistare, per cui lo Stato deve intervenire con provvidenze a favore delle categorie deboli, e lì pensiamo a tutte le forme anche attuali di mutui agevolati per le giovani coppie, per gli indigenti e per determinate fasce della popolazione, ma anche deve controllare l'intero sistema del credito affinché consenta il diritto all'abitazione, il diritto alla proprietà, che in fondo è uno dei diritti fondamentali della persona umana che vuole risiedere in una casa di proprietà. Va anche ricordato che il diritto all'abitazione non è riconosciuto solo a livello costituzionale italiano, ma trova piena legittimazione nelle grandi carte internazionali sui diritti. Ad esempio, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, la Dichiarazione dell'ONU, l'articolo 25 prevede proprio il fondamentale diritto umano all'abitazione, in quanto la piena esplicazione della libertà personale passa anche attraverso il poter domiciliare e risiedere in un'abitazione di proprietà.